9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 31 marzo. Devo ammettere che sono riscaldato dal fatto che alcuni di voi, dopo il lancio della trasmissione che faremo oggi, una trasmissione pausa, di decompressione, deliberata dal vortice che inevitabilmente da 36 ore a questa parte vi propone su qualunque stazione radiofonica, televisiva, i risultati delle elezioni, le interpretazioni delle elezioni, il TG dopo le elezioni, gli scontri. Ecco, mi pare che per il momento abbiamo capito come sono andate le elezioni. Per coloro che giustamente volessero ancora approfondimenti oggi tra le 9 e le 10, suggerirei con piccola modestia, in punta di piedi, di girare e di sentire qualcos'altro, perché noi oggi, per deliberata scelta di curarci delle vostre anime e del vostro cuore e della vostra testa, pensate quanto sono imbarazzantemente e assolutamente superbo, ci occuperemo invece di farvi vibrare testa e cuore con una scelta che unilateralmente faccio io, perché sono il conduttore. Ogni tanto, lo sapete, vi propongo un musicista che mi ha particolarmente colpito. Lo abbiamo fatto tempo fa con Ludovico Einaudi, è stata una trasmissione quella in cui molti di voi hanno immediatamente iniziato a dire: Giannino è pazzo, non ascolterò mai più Radio 24. Tanti altri invece hanno detto: to, però non l'avevo mai sentito, ne vale la pena. Oggi facciamo la stessa cosa e la facciamo con, secondo me, uno straordinario interprete tecnico della chitarra acustica che si chiama Giovanni Baglioni. Io non parlerò del suo cognome, nel senso che chi di voi sa di chi è figlio, ben buon per lui, perché a me interessa lui. E mi interessa, ne parleremo nel corso della trasmissione facendolo suonare, e qui in studio. Grazie Giovanni di aver accettato l'invito. Buongiorno Oscar, buongiorno a tutti. Ecco, io penso che la cosa migliore, a parte che non so quanti di voi, io ho perso la testa dietro il violino per lunghi anni della mia vita, però insomma, diciamo, gli strumenti a corda, non so quanti di voi hanno pensato di mettersi seriamente a studiare con una Martin in mano, con una chitarra, al di là dello strimpellare che quando eravamo giovani ovviamente si tentava di fare per qualche ragazza, nel mio caso con improbabili esiti, ma al di là di questo la chitarra è uno strumento strepitoso. E io direi che prima di fare chiacchiere facciamo parlare la chitarra, e quindi da questo album che quando mi è passato per le mani l'anno scorso Giovanni mi ha fatto letteralmente rabbrividire, e voi non pensiate che sto esagerando perché raramente uso queste cose, mi ha fatto rabbrividire per la tecnica di esecuzione, per alcune cose di cui poi parleremo tecnicamente. Però intanto direi che da questo album che si chiama Anima Meccanica sentiamo, perdonate il mio naso che fa a pugni rispetto alla bellezza di ciò che ascolterete, che oltretutto è appropriato per quest'ora la mattina, perché si chiama, Giovanni, come si chiama? Si chiama Get Up. Get Up, quindi insomma sveglia. Vai Giovanni. Diciamo che questo è secondo me un buon biglietto di presentazione, e sto guardando con un occhio un po' trepido i messaggi, perché alcuni hanno iniziato a ringraziarmi, e soprattutto li ringrazio, in particolare coloro che dicono che di solito non sopportano ciò di cui parlo, e oggi invece sono molto a favore, quindi Giovanni mi stai già regalando punti, e questo mi va benissimo. Però detto questo, Giovanni, oggi ti chiedo di parlare non solo e non tanto, facciamolo un po' dopo, di come, perché la chitarra per te nella vita, eccetera. Cerchiamo di metterci sulla lunghezza d'onda di chi è a casa, sente questa maniera di suonare la chitarra, diciamo non è molto abituale, di solito la gente è abituata a sentire la chitarra come uno strumento di accompagnamento, oppure in tanti, forse in un numero maggiore, hanno l'idea della chitarra rock, hanno in testa, insomma, hanno in mente grandi schitarrate elettriche, hanno in mente Jimi Hendrix, hanno in mente, non lo so, Van Halen, questa gente qua, che sono comunque grandissimi chitarristi, niente da dire. Però per chi invece secondo me siamo meno come numero. Per questo ti dico, bisogna che nel parlare devi tenere conto che siamo meno. Per chi ha in testa, per me fu una cosa, per esempio Pat Metheny, lo dico subito, Pat Metheny è stato, nei lunghi anni in cui avevo problemi di salute, Pat Metheny è stata una scoperta di una specie di terapia di gruppo con quelli che condividevano con me le corsie, nel senso che ci siamo messi là, siccome a me piace spiegare la musica, ci siamo messi là con tutti i dischi di Pat Metheny, che secondo me è un grande assoluto, poi a metà col jazz, Ornette Coleman, cioè un grande. Per me Pat Metheny mi ha veramente fatto capire come si può usare l'intensità armonica di questa cosa che tu suoni così. Poi mi imbattei anni dopo in un disco di uno che è un tuo punto di riferimento, perché chi l'ha ascoltato, spero tanti, fatelo, se non avete mai trovato un disco di Michael Hedges, procuratevelo, perché è una cosa che fa rimanere senza parole e capirete perché poi Giovanni, secondo me, suona così, si ispira, tenta di andare avanti e va anche oltre, ma insomma il filone è quello. Allora ti pregherei di stare a chi sta a casa, di spiegare in maniera non tecnica, ma anche senza ritrarti dal tecnico, per fare capire questo strumento che ha in mano, qual è la sua particolarità e perché questa maniera di suonare in arpeggio, perché questa maniera, non so quanti di voi lo abbiano capito, ma qui si usa la chitarra con una doppia mano come cassa armonica, non solo con le corde, la si usa integralmente con la doppia mano, sia su il manico, sia su, che è una cosa strepitosa da vedersi, ma strepitosa per quello che fa fare alla chitarra. Perché ti piace questa maniera di usare la chitarra così, Giovanni? Il perché non lo so, so che tutto il mio percorso è andato avanti proprio per curiosità, per interessi che sono stati catturati via via da vari generi musicali. Inizialmente io, il mio primo amore, la mia prima infatuazione chitarristica è stata per Tommy Emmanuel, un grande maestro australiano nel quale io ho trovato, rispetto alla mia esperienza, per la prima volta la chitarra utilizzata in questa maniera che dicevi tu, un po' rispetto alle nostre latitudini culturali, un po' più inusuale, però con una dignità da solista, da concertista, invece che come strumento di accompagnamento, che non è meglio, però è un'altra cosa. E poi sicuramente Hedges è stato un mio riferimento tecnico più specifico, perché questo utilizzo, come accennavi tu, della chitarra oltre tanti limiti o presunti tali che l'hanno relegata, che l'hanno costretta in tanti altri modi di utilizzo, si va appunto a utilizzarla estensivamente, a utilizzare le corde, a farle vibrare non solo mediante il pizzico della mano destra, ma anche con la stessa percussione, e quindi si può liberare la mano destra da questo compito e utilizzarla, come accennavi tu, in tastiera per produrre altre note, produrre rivolti degli accordi differenti. Una cosa meno evidente all'occhio, ma sicuramente lo è all'orecchio, è l'utilizzo di accordature alternative, che quindi permettono proprio accordi con rivolti particolari. Spiega un secondo, perché poi ripeto, la tragedia di questo paese è che sempre meno studiamo musica. Io sarei a favore del fatto che veramente è raro che mi sentiate parlare bene, come per chi mi conosce, insomma, di Hugo Chavez e dei programmi del suo paese, però io devo ammettere che Abbado su questo ha perfettamente ragione. Lì, col fatto di avere portato la musica di massa con centinaia di migliaia di poveri venezuelani, meno poveri venezuelani, ma quello che conta è non solo più i ricchi venezuelani, che sanno di musica e suonano musica, beh, cambia l'intensità culturale di un paese, cambia. Nel nostro paese siamo un paese che ha prodotto il meglio del meglio della musica, adesso la musica non studia più nessuno. Detto questo, però, spieghi questa cosa delle accordature a chi secondo me non è in grado di capire, magari anche con qualche esempio, cosa diavolo vuol dire. Senz'altro, l'accordatura della chitarra standard, come è stata concepita la migliore per fare probabilmente le cose per le quali era stata pensata, è dal grave al cantino, per chi non lo sapesse, mi, la, re, sol, si, mi. Ha fatto un po' fatica perché non la utilizzo mai praticamente. Infatti. Io in questo caso, non so se la posso far sentire volo. Sì, è la cosa migliore, guarda. Re, la, re, mi, si, re. Questa è solo una di quelle che utilizzo. Io ho cercato di complicarmi la vita non utilizzando, almeno nel repertorio del disco, la stessa accordatura per più di due brani. Mi permette, per esempio, in questo caso, io ho trovato molto semplice fare degli accordi dove posso semplicemente trovare accordi con la settima e la terza, maggiore o minore. Quindi tutte progressioni. Mm. con un pedale al canto, ecco. Diciamo, senza voler andare troppo nello specifico, però ci sono proprio delle sonorità che un po' stupiscono, perché la nostra mente inconsapevolmente non le attribuisce direttamente alla chitarra acustica. Almeno questo è l'effetto che ha fatto su di me, uno dei motivi per i quali mi sono incuriosito e poi cimentato in questo utilizzo della chitarra. Poi questo fatto della coratura alternativa si sposa bene, esalta bene, ha una forte sinergia con l'uso del tapping, perché certe posizioni che si assumono con questo percuotere la chitarra e farla risuonare. Tapping è appunto il percuotere, per chi non... Queste non sono pizzicate, sono percosse. Non sarebbe possibile se le corde fossero intonate alla stessa maniera, o meglio, potendo assumere solo delle posizioni un po' più semplici di quelle non degli accordi, quando si suona in maniera tradizionale, si potrebbero ottenere degli intervalli che sarebbero sempre gli stessi. Quindi per valorizzare anche queste altre tecniche, l'accordatura alternativa è fondamentale. Ora, io questa cosa che capisco, alcuni di voi diranno, ma cosa diavolo state inoltrando in queste cose? Perché in realtà la cosa che mi colpisce sempre è quando vedo molti che amano la musica improvvisamente, si innamorano di musicisti... Anche Giovanni inizia ad avere un buon numero di fan, questo per fortuna. Ma detto questo, quello che mi colpisce è come spesso non si comprenda come dietro l'intensità, l'estensione, la particolarità di un trattamento musicale che dà la cifra a quel punto di chi suona questa musica e la produce, ci sia dietro un percorso di ricerca che nasce da studi veri intorno a come usare uno strumento e a come farlo esprimere in coerenza con qualcuno, con ciò che ciascuno sente dentro. Mentre invece noi siamo abituati a un'idea un po' banalotta, la musica, melodia, non è così. E io sono molto atterrito dal fatto che tanti giovani e tanti italiani abbiano smarrito questa cosa dei fondamentali tecnici, grazie ai quali poi appunto il cuore e la testa riesce a far fare allo strumento qualcosa che è coerente a qualcosa che uno ha dentro e magari non ha sentito prima. Però ci vuole tutto questo, cioè ci vuole fatica. Il concetto della fatica per te quanto è stato grave per davvero farti impadronire di quella roba lì? Forse oggettivamente lo è stato, però dal punto di vista soggettivo appunto non lo è stato così tanto. La passione, la curiosità, l'interesse, la magia della scoperta di qualcosa di nuovo fanno pesare molto meno, fanno assumere un carattere estremamente diverso alla fatica. Quindi sì, le ore, il tempo sicuramente è stato necessario, però è stato piuttosto leggero, anche se serio. Oh, qui iniziano a scatenarsi naturalmente i fan di Van Halen e di quelli. Capisco, ragazzi, ce n'è per tutti. Faremo, non so chi riesco a portare, perché non ho grandi idoli in quel filone, però devo ammettere che Giovanni non me lo farei sfuggire. Adesso invece ti chiedo un'altra cosa: per come ti sei poi imbattuto e inizi a inoltrarti nella commercializzazione poi, no? Di quello che fai, di quello... Il primo approccio, diciamo, da un paio d'anni a questa parte, ti fa passare alcune delle remore che immagino avessi, conoscendola da di dentro, per il mondo in cui sei cresciuto? Non è certo un mondo in cui devi arrivare senza che ti fosse noto. Tu hai, diciamo, un avviamento, si direbbe in termini professionali, paterni, per cui è un mondo che conosci. E quindi immagino ne potessi diffidare da quando eri piccolo e forse anche superarne gli ostacoli meglio degli altri. Ma la domanda è solo questo, ti chiedo per il nome che porti: superarli meglio degli altri o peggio degli altri? Perché magari nel tuo caso ci si aspettava ancora di più che dagli altri, perché molti pensano in Italia, no, eccola là, non mi pare, se avete sentito non mi pare, ma non voglio proprio parlarne di quello. Ma è stato meglio o è stato peggio per la commercializzazione? È stato complesso, diciamo, è articolata la questione come un po' tutte quante se le si analizzano. Penso di aver goduto di una certa curiosità che riguardava ciò che facessi proprio in virtù del mio cognome. Penso che anche questa curiosità alle volte avesse delle aspettative che dal mio punto di vista sono sbagliate, perché io mi aspetto da me stesso di fare bene ciò che ho intenzione di fare, non sì. Di fare bene o male ciò che gli altri si aspettano che io faccia in virtù di, sì, insomma, di qualcosa. Niente magliette fine, adesso io faccio battutaccio ovviamente, però per capirci con niente le perdono magliette. Assolutamente, no, nel senso che magari qualcuno, ecco, mi viene a vedere aspettando, ma che repertorio canterà delle sue cose originali, canterà delle cose del padre. E poi per fortuna ho il piacere, la grande soddisfazione di mandare via i più che sono venuti per questa, per una curiosità di questo genere, con dimentichi del motivo primo per il quale erano arrivati. Ma che cosa, secondo me hai detto una cosa stupenda, il piacere di mandarli via. No, devo ammettere che scusate, vi faccio riflettere, no, che ritorna qualche eco psicanalitico c'è comunque, ecco, per quanto sia bravi a superarlo. E quindi insomma tu dici, insomma, mi hai aiutato, però anche non troppo. Se dovessi chiederti però chi erano i tuoi punti di riferimento, noi adesso abbiamo parlato prima di Michael Hedges, ma prima ancora, cioè chi era per te, nella tua graduatoria personale dei chitarristi, prima ancora davvero di decidere di fare questo, che tipo di... Ma prima, in realtà non c'era, perché io ho sempre inteso, fin da bambino, quando ho avuto i primi contatti con la chitarra, questa attività come... qualcosa di piuttosto limitato, di piuttosto circoscritta, una parte della mia giornata, una parte del mio pensiero. Era una cosa così, cioè non è che... Non ho mai sentito una predestinazione, no, diciamo. Cioè, no, assolutamente. Non c'era un Keith Richard che dicevi, ah, quello, ecco, un Eric Clapton che ti diceva, ah, quello, no. No, assolutamente, i miei gusti, i miei ascolti erano i più disparati, si sono anche evoluti di pari passo con i gusti che solitamente si sposano con l'età e anche con la vita sociale. Sì, ma non ti vedo molto heavy metal, però. No, heavy metal non lo sono stato, però insomma un'adolescenza magari più da gruppo, infatti ho fatto parte di un gruppo, di una formazione rock, una quasi post-adolescenza un po' più commerciale, se vogliamo, poi anche le evoluzioni di questi gusti qui, però ripeto, essendo piuttosto recente la mia presa di coscienza dell'aspetto professionale di questa mia attività, mi ci sono sempre relazionato con una certa leggerezza, appunto. Ma col gruppo, diciamo, questo gruppo post-adolescenziale e pre-commerciale che individua proprio un passaggio, che tipo di genere di musica facevate? Facevamo del rock melodico, diciamo, più che altro cover, con questa ambizione di fare dei pezzi nostri che però poi non c'erano, sono sempre rimasti, facciamo i pezzi nostri. E però quindi, però i cover di che gruppi erano? Cover erano, ma anche lì purtroppo eravamo tirati, la coperta era cortissima perché avevamo dei gusti veramente centrifughi, c'era chi voleva fare... della musica un po' più dance, un po' più sul Jamiroquai, cioè chi voleva fare un po' un rock più Red Hot Chili Peppers, chi voleva andare più sul nazionale. Vabbè, con un basso di Ligabue, questo si capisce che insomma avevate successo con le ragazze. Io invece ho sempre coltivato dei filoni minoritari, io impazzivo quando ero giovane per Ray Cooder, per cose un po' strane, cioè B.B. King, cioè, tutte cose che con le ragazze coetanee non servivano a niente, che ti facevano guardare come una specie di matto, così, che un matto assoluto. Però del resto ognuno con la musica riesce a farci quello che può. Io di solito ci ho coltivato meglio, molto meglio, le mie solitudini coatte, e questo devo ammettere che è una cosa strepitosa. Adesso ci tocca la pubblicità e poi rientriamo con un altro brano in cui suoniamo. Quando rientriamo suona direttamente il secondo brano, quindi ne annuncio il titolo, perché si chiama L'insonne. È per questo che ho ricordato tutte le volte che la musica mi ha fatto capire che l'insonnia è una maniera per conoscere meglio gli altri l'indomani mattina, durante il giorno. Ora, naturalmente voi dovete immaginare, lo dico per voi in ascolto, che come per voi è un po' anomala questa puntata, anche se devo dire, dai messaggi fino a questo momento, prevale di gran lunga chi vorrebbe salvarmi e non chi bruciarmi come al solito, quindi questo è merito sicuramente tuo, di Giovanni, però c'è, i tecnici spesso dicono troppo lungo, troppo, sfumiamo, perché l'idea è naturalmente che in una radio talk bisogna sempre parlare in fretta, molto così, approfondire, invece ogni tanto la mia idea è che rompiamo apposta, i brani si sentono il più possibile integralmente, per rispetto verso chi non solo li esegue, come in questo caso qua in studio, ma li ha anche concepiti. Questo, vi ricordate quanto ho insistito su questo quando abbiamo fatto l'altra puntata? E a proposito, Giovanni, come, cioè, l'idea di concepire, cioè di comporre, qui l'idea, come sempre, che ha chi non ha sentito musica, dice, a un certo punto c'è una specie di illuminazione, no? Si prende il pentagramma, eccolo, 30 secondi, forse non funziona proprio così. Nel tuo caso come funziona? Io l'ho vissuta e spero che i più la vivano come una sorta di piccola magia, come una ribellione delle mani, perché da quando da esecutore ti scopri a fare qualcosa di diverso, poi ovviamente lo devi inseguire, lo devi perfezionare, lo devi razionalizzare, ma l'idea prima è proprio un'insinuazione nel tuo pensiero di qualcosa di estraneo, di qualcosa di curioso. Poi c'è tutta una fase di razionalizzazione che forse è più diurna, ecco, quell'altra è più notturna se vogliamo collocarla nelle ore del giorno, che io affronto con un approccio che può sembrare un po' freddo, un po' matematico, un po' geometrico, però in realtà è un carattere dell'arte, è un po' un cercare di rispettare, ecco, più che delle geometrie, forse delle proporzioni, un canone, un qualcosa che dia il giusto peso agli elementi della musica che abbiamo a disposizione. Poi ovviamente si rispetta a vari livelli, ci sono dei brani magari che privilegiano qualcosa e altri che privilegiano un altro aspetto. Ma tu come aspetto. Andavi in matematica a scuola? Tu cosa hai fatto? Andavo, liceo? No, liceo io ho fatto lo scientifico. Sì. Come andavi? Io andavo piuttosto bene, ero anche piuttosto sfrontato, correggevo grafici dei professori, facevo cose di questo genere. Questo mi piace molto, perché di solito gli studenti oggi sono un po' privi di questa attitudine critica. Però... sì, mi ha sempre affascinato questo smussare dei concetti matematici, no? Della geometria nel gusto, poi nella percezione, nell'arte. Secondo me è affascinantissimo come ciò che si traduce in un puro rapporto matematico tra frequenze, quindi tra altezze, esatto, delle note, venga percepito in maniera quasi univoca, in maniera quasi oggettiva, come un sentimento dalle persone. Non è una cosa oggettiva o convenzionale che un rapporto di quel tot che identifica una terza minore, per esempio, dia un senso più di oppressione che non la soluzione che dà una terza maggiore. Allora questo passaggio dalla sensazione al rapporto matematico è per me molto molto affascinante. E io credo anche, ma questo dipende che approccio uno ha quando fa le classi, no, al conservatorio sono le classi tecniche di composizione eccetera, che approccio i maestri ti danno allo sviluppo, per esempio, matematico dei temi, delle altezze, delle ampiezze. Queste sono cose che, dette così, immagino che alcuni facciano apparire la musica come una specie di sviluppo freddo da computer, mentre invece non è così. Questa componente c'è, è fondamentale e non è affatto separata poi dall'invenzione propria, perché anzi di solito è qualcosa che ti arriva in testa che poi tu alterni e sviluppi con questi strumenti, o no? Cioè... Assolutamente, cioè, non penso che vada a svilire la poesia o il romanticismo intravedere questa componente nella musica. Quindi ragazzi, fatemi questo favore, studiate matematica, siete troppo sommari di matematica, gli studenti italiani in media, lo dico sinceramente, lingue straniere e matematica senza, guardate che il mondo è di chi ha fame e voi forse siete un po' troppo sazi, anche perché se no vi piacerebbe di più questa musica. Questa è un po' la mia idea. Adesso Giovanni mi sta guardando, ma dice guarda che la mia musica mi piace molto perché faccio teatri pieni. Ma tu che genere di spettacoli fai? Lui in questi giorni è in tour in un grande spettacolo perché sta con un altro grande musicista, secondo me non è ancora ben inquadrato dal pubblico. Con chi stai girando Italia Teatro? Ho avuto il piacere proprio ieri sera di fare la seconda data al Teatro Arcimboldi, che peraltro suona benissimo, complimenti. Complimenti a voi di qui, con Mario Biondi. E quindi insomma stiamo parlando di una specie di, cioè, una voce un po' tra Ray Charles, una voce molto particolare nel solo italiano, ecco. Io amerei che facesse sempre più solo e non gli chiedessero di fare quelle cose che ogni tanto gli chiedono di fare a Sanremo, però capisco che anche lì la musica commerciale è musica commerciale, e in quel caso la gente che viene a presentare e sente te, Che cosa si crea poi? Perché lì stiamo parlando di teatri abbastanza grandi, quindi non credo. Molto grande. Ecco, sì. Io in queste, nelle, come dire, negli appuntamenti che non mi prevedono come unico e centrale attore della scena, cerco di entrare sempre in punta di piedi perché ho il timore di elefantizzare la cristalleria, come dire. E invece, e questo è molto bello, mi devo sempre stupire che vengo sempre accolto un po' meglio di come penso, cioè con un affetto che non capisco da dove si origini. Io ne prendo atto alla fine e ne sono felice. Ieri sono stato interrotto, come dire intervallato, per due volte durante l'esecuzione del brano che peraltro ha aperto questa mattinata con degli applausi, quindi io... Non so il perché. Qui addirittura c'è chi ti avvicina a Emerson, Lake e Palmer, qui c'è di tutto, si sta partendo. Però ecco, mi fa piacere che anche tra gli ascoltatori di questo umilissimo verme che è Oscar Giannino, cioè, vedo che poi in realtà a gusti musicali ce la battiamo abbastanza bene. Chi ti chiede quante chitarre alterni a seconda di che tipo di musica fai, se ce n'hai una sola fissa oppure no? 95% del mio del repertorio che ho a disposizione adesso lo suono con questa chitarra che ho qui con me adesso, che è una Martin J41. E quindi siete accontentati da questo punto di vista. Altri chiedono quanto, ma tu ti esibisci sempre da solo, sei rigorosamente un musicista solista oppure c'hai un gruppo tuo? No, non ho il gruppo, ripeto, ho il piacere alle volte di piegare un pochettino la mia indole, il mio approccio solista alla musica a qualche esperimento, a qualche collaborazione, però il mio spettacolo per così com'è, a meno che alle volte non ospiti qualche intervento, è concepito e realizzato e attuato da solo. Ora ragazzi, noi dobbiamo andare alle informazioni, come sapete, appuntamento fisso, un minuto di informazioni sulla circolazione stradale, ma anche quindi per poi la parte finale al reingresso annunciamo il terzo brano che Giovanni poi ci esegue, visto che dopo l'insonne è Rubik ed è proprio il cubo, perché poi tu prima sentitelo e poi capirete perché si chiama Rubik, perché questo è impazzito quando era, cioè, poi, ecco, io per Rubik proprio non capisco, però lui è impazzito per il cubo di Rubik. Grazie a Giovanni, a me personalmente ricorda il brano che Pat Metheny in Beyond Missouri Sky insieme a Nick Hayden dedica al padre, ricordando Beyond Missouri Sky, perché appunto è nato Missouri, Pat Metheny, e ci sono alcune armoniche, alcune cose che a me fanno venire i brividi per come mi ricordano quel brano. Ma perché Rubik? Perché che importanza aveva sto cavolo di cubo che non mi torna con la tua... Ma guarda, io sono una persona che si ossessiona un po' con le cose, non so, sono... Il principe dell'inutile, diciamo, no? Queste... Ma non direi, rispetto a sta musica non credo sia inutile. No, ma nel senso queste... Con questo criterio la maggior parte di coloro che si hanno presentate alle elezioni che ci riempiono la testa da giorni dovremmo mandare non so dove rispetto all'utilità di questa musica. Opinione mia, non vi offendete, cari politici in ascolto. Ma io ho ritrovato questo oggetto in quel cestino di vimini intrecciati piccolino che solitamente ospita le più disparate cose, solitamente anche una chiave a brugola, delle viti che provengono, che è una specie di zona franca delle stanze, delle case, di un mio amico, e ho detto io questo strano oggetto colorato l'ho sempre visto ma non l'ho mai affrontato, e questo è successo qualche anno fa, è arrivato il momento perché ero talmente presuntuoso da non poter far sconfiggere la mia vita da questo oggetto. E ne sei venuto a capo? Ne sono venuto a capo ed è stato piuttosto faticoso, e il brano si intitola così perché è stato parimenti faticoso venire a capo della organizzazione di elementi che costituivano l'idea prima del brano e che mi sembravano potenzialmente validi ma che non riuscivano a trovare una loro giusta collocazione, e alla fine i percorsi sono stati un po' paralleli. Anche nel brano ci sono proprio queste aperture in maggiore che sembrano rappresentare quel senso di appagamento della faccia omogenea del cubo, e poi la frustrazione, un po' di momenti di tensione anche musicale che sono quando non sembra non venire a capo, anzi sembra, si sembra tornare indietro, insomma. Esattamente, però anche lì c'è la matematica in Rubik, di riffa o di raffa lì si torna. Devo ammettere che con una certa soddisfazione vedo che molti dicono ma come si chiama questo Giovanni chi? Ecco, per me la soddisfazione è di arrivare a ripetermi ovviamente che si chiama Giovanni Baglioni, poi chi non avesse capito, la maggioranza ripeto da chi, perché l'ho detto troppo poco, sì, proprio il Baglioni, Baglioni, avete presente quel tipo insomma, che invitano sempre in televisione? Sì, quell'altro. Accidentalmente è il padre, però avete capito che non ho deciso che non ne voglio parlare, perché è un grande, però parliamo di Giovanni Baglioni, il suo disco si chiama Anima Meccanica, per chi lo volesse cercare, non è facile trovare un negozio, perché quando è uscito poi in parecchio è girato molto voce, per esempio io posso dirvi che nel centro di Milano i 3-4 negozi più così c'è solo più in uno, quindi appello, facciamo una nuova distribuzione dell'album. Esatto, perché non siate pavidi, ecco, casa bisogna chiederlo, però le case discografiche non stanno facendo un granché il loro bene mestiere. Dunque, due telefonate ancora al volo perché ci sono gli ascoltatori, ma Michele dalla provincia di Pescara, prego Michele. Pronto? Dica. Buongiorno Giannino. Eccoci. Intanto la ringrazio perché lei ha staccato, ogni tanto bisogna staccare. Sono d'accordo. E prima con Eirawi, adesso con Giovanni Baglioni. Sì. Io sono un appassionato di chitarra. Ah. E lei che è anche un grande economista del blog di Chicago, ha nominato Chavez, che ha fatto un grosso laboratorio sulla musica di massa. Sì, devo riconoscere i suoi meriti. Cioè, dice, per quanto cattivo sia, riesco anche a fare i complimenti al Nemiken, come si direbbe. Ma che c'entra? È la musica, e quella secondo me è uno straordinario programma nazionale di acculturamento, che produce straordinari talenti e consente a loro, attraverso la musica, attraverso il loro cuore, la loro testa, di avere vite migliori, di andare nel mondo facendo musica con le loro orchestre. Quindi io questo devo dire, che c'entra? Quella è una strepitosa idea. Sentiamo Marco ancora dalla provincia di Milano. Prego Marco. Buongiorno Giannino. Eccoci. Per un attimo ho temuto che il chitarrista che anticipava fosse Apicella, poi invece le faccio i miei complimenti. Ma perché pensate così male di me? Mannaggia la miseria. Ma perché? Cioè io non avete sentito le trasmissioni prima del voto, che mi sono costate molti ceffoni per quello che speravo e che non si è verato, non so se l'avete capito. Quindi, è una scelta comunque grillesca, quindi la mia stima e i miei complimenti a lei e a Giovanni. Una domanda, se potevo. Può ripetere lentamente l'accordatura, la sequenza dell'accordatura? Questa è una domanda. E la seconda, cosa ne pensa di quel bel film che secondo me dovrebbe essere fatto vedere in tutte le scuole, Auguste Rasch, che sviluppa il discorso della musica ed è centrato proprio anche su questa tecnica? Io su questa seconda cosa sono molto a favore. Io userei molto questi strumenti nelle scuole, cioè l'audiovisivo, per ingenerare attenzione e poi approfondimento per la musica, le diverse musiche, diversi strumenti, secondo me lei ha perfettamente ragione. Quanto alla prima, invece facciamo rispondere direttamente a Giovanni. Allora, la prima accordatura dal grave al cantino era re, la, re, mi, si, re, mentre quella dell'ultimo brano che ho suonato, la dico al volo perché è la stessa col la invece al cantino, quindi molto molto abbassata la tensione. Vedi, diciamo, domande come vedi di gente che poi apprezza, ve ne farò di più. Ancora Antonio da Roma, prego, al volo breve Antonio, prego. Sì, allora, intanto grazie Giannino, perché lei è uno che veramente venga al punto. Tante cose. Allora, parto da una cosa sul padre di Giovanni. No, venga al punto. Me lo faccia dire, perché è rovesciata. Io non ho mai amato, mai, non la tua musica. Ma non stiamo parlando. Mi piace da morire, di Giovanni. Ah, vabbè, basta dire mi piace la musica di Giovanni, perché bisogna dire. Non mi metta in conflitto. Ma certo, appunto. Basta dire questo. Grazie Antonio di questa testimonianza che, come sempre, prova che su padri e figli noi dobbiamo ricominciare a leggere padri e figli. Se vi chiedessi a quanti dei vostri figli hanno letto padri e figli, secondo me non saprebbero dire, ma chi? Qualcuno direbbe Dostoevsky, direbbe Turgenev. Ecco, questo. Riprendiamo un po' in mano i classici anche per la grande musica. Giovanni, ultimo pensiero, che cosa ti sta dando fino a quello che in questo momento ci ha investito la musica? Ma io lo vedo proprio come un investimento, anche se non era così, così cinico il mio interesse iniziale, però è proprio un investimento, perché sta dando, io penso, più di quello che ho investito. Comunque una grande gioia. Io sono d'accordo che la musica sia questo. L'ho fatto persino con me, che sono un stupidello qualunque, che però è appassionato. Grazie a Giovanni Baglioni. Anima Meccanica è il suo disco. Per chi è nei teatri, ma sono tutti sold out, come Mario Biondi per il giro, però c'è anche Giovanni Baglioni. Nel futuro cerchiamo di chiedere i suoi dischi e di andare ai suoi concerti, perché vi garantisco, la mia modestissima opinione è che è davvero un grande, grazie a lui, appuntamento a domani, e ora la linea al giornale radio.